Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Cosa fai col kazoo, Drago? Così, è l'ultimo giorno di giugno, siamo ancora qua, non c'è niente da festeggiare col kazoo. Ecco, bravo, quindi ecco. Non c'è niente da festeggiare, non però qui lentamente non c'è niente nemmeno da dire, perché col caldo stanno evaporando anche gli argomenti, vanno bene per Chiedo Asilo. Tipo? Anche la TV non offre granché di nuovo, perché i palinsesti si stanno svuotando. La TV alla radio. Ah, no, ma come? Tra poco l'invasione delle repliche si manifesterà in tutta la sua soporifera potenza. Invasion of the Replicas. Ma cos'è? Non so, potrebbe essere un film di tipo di Ed Wood. L'invasione delle repliche. Invasion of the Replicas. Le repliche televisive, cosa c'entra con la fantascienza? I cloni che invadono la Terra, no? Replicas in quel senso. No, invece, ahimè, non è un film di Ed Wood, ma è l'estate che si godrà, ad esempio, con la povera donna di mia madre che ha quasi 80 anni e va in crisi di astinenza se per due giovedì non vede Santoro su Rai 2. Vabbè, ma tu mandagli, ma gli mandi le repliche sul computer. Vabbè, non è la stessa cosa. Ma sì, tanto sono tutti uguali quei programmi lì, no? Te li confondi, fai vedere non so, qualcosa dell'autunno passato dove erano belli agguerriti. Ma non è vero, non è mica così messa male. Lei vuole vedere Santoro che parla degli argomenti di attualità, che ne so, adesso di tutte le cose che succedono. Invece niente, Santoro su Rai 2 ormai caput. Santoro però non si arrende mai, poi è l'unico che può permettersi di parlare un po' della sua situazione contrattuale in diretta TV, sai, l'ha fatto proprio una questione pubblica, come se fosse un argomento di interesse pubblico. Non so, stavo dormendo, noi, Drago, no? Di cosa stai parlando? Possiamo farlo anche noi, no? Ma cosa? Parlare del nostro contratto così tranquillamente. Sì. No, sai che bello, eh? Ci mettiamo qui, diciamo, caro amministratore delegato, ci vuoi o non ci vuoi? Perché sì, chiaro, perché o ci vuoi o non ci vuoi. Ma cos'è? Cosa stai dicendo, Drago? Caro amministratore, non si fanno così telefoniamo, i programmi, non si parla degli affari propri. Ma Santoro lo fa sempre, lo facciamo anche noi. Telefoniamo all'amministratore delegato dell'asilo. Tanto. Dai, forza, dai. Segreteria telefonica. Lo vedi? Non risponde. Lui fa delle altre cose. Lui va alle feste, va nelle ville, va con i gioielli. Non lo so, ma senti, come dice Vincent Cassel, no? Basta. Basta, non se ne può più. Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo. Alla fine rimane lui per muore di fame. In Italia va sempre di moda l'associazione segreta, una cosa proprio che adesso si parla tanto della P4, tutto parte dalla P2, poi è stato tutto un fiorire. P2, P3, P4. Ma la P1, scusa? La P1 non è mai esistita, non lo so. Sì, forse sì, si parte direttamente dalla P2. No, comunque la P1, essendo Pipe, sta per propaganda. La P1 era quella di Goebbels. Springtime for Hitler in Germany. La tendenza a creare una banda è tipica dei bambini intorno ai 10 anni. Sì. Di solito un bambino un po' più sveglio degli altri, no? Qui decide di fondare, no? Una banda, no? Sì, la banda. E cerca di prendere intorno a sé quelli un po' più deboli, così li fa venire un po' idee strane. Però in testa. Cosa fa eccetera. La banda? E appunto, suona. Niente. Sì, la banda suona di solito, se no non fa niente, capito? Per i bambini è solo bello incontrarsi, fare le riunioni segrete, eccetera. Invece poi, se cresci e fai queste bande segrete da adulto, qualche casino alla fine lo combini. Ad esempio il bambino Luigino Bisignani adesso è inguaiato, perché di solito succede così, che i giudici intuiscono che in un certo settore è in azione un'associazione segreta, raccolgono le prove come intercettazione eccetera e fanno partire l'inchiesta. Da quel preciso momento i componenti della banda cominciano a minimizzare. Eravamo quattro compagni di merende. È partito tutto da lì. Giocavamo con le macchinine. Esatto, tutto così. La P3 ha occupato per due giorni le pagine dei giornali, tu te la ricordi ancora la P3? Quella dei due vecchi, che c'era addirittura Ortolani. Giocavano con le girandole, l'eolico lì. Sì, quello lì, esatto. A furia di fare i tonti, quelli si sono smarcati agevolmente dall'interesse dei media, nessuno si ricorda più niente della P3. E adesso tac la P4. Arriva Luigino, tac. Ma però Luigino non può mica far tanto il tonto, perché tonto non è. No. Ma la P5? La P5. Allora, mi senti? Yeah, I hear you. Ok, allora facciamo che io facciamo il freestyling e tu facciamo il coro. Volenterissimo. Gildo, che noia mortale giocare da solo a battaglia navale. Gildo, sono triste e solitario. Gildo, facciamo che tu eri Gildo, il mio amico immaginario. Freestyling. Gildo, vai con la base. Gildo, sei come un fantasma. Gildo, nessuno ti vede. Gildo, ma c'hai la voce con l'asma. Gildo. Gildo, siamo culo e camicia. Gildo, io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il coro. Volentierissimo. I wanna get a fight freestyling. Gildo, facciamo merenda. Volentierissimo. Giochiamo rinvii. Volentierissimo. Montiamo una tenda. Volentierissimo. Giochiamo la Wii. Volentierissimo. Facciamo una festa. Volentierissimo. Chiamiamo due escort. Volentierissimo. Anzi, due a testa. Volentierissimo. Però paghi tu. Gildo. Allora Gildo, facciamo così. Questa volta paghi tu. Volentierissimo. Anzi, mi dai adesso 100 euro? Gildo. Che poi dopo... Volentierissimo. E dopo tu te li fai dare da tua madre, no? Volentierissimo. E allora dammeli, no? Gildo. Allora. Signori! Pieno asilo! Ho visto una cosa su internet, Drago, bellissima. Cos'è? Un vasetto, sì. Un vasetto come quello delle marmellate, un po' più grande delle, sì, di vetro. Con dentro una farfalla che vola. Ah, ma poverina, ma come? Ma ah, no, ma mica farfalla... vera, no, ah. Però sembra vera. E cos'è? Azzurra, è una magia digitale. Ah, una magia, quindi hai la farfalla nel vasetto e non muore mai. Non muore mai, però poverina gira sempre lì intorno. No, è assolutamente è regolata dalle leggi del caos il movimento della farfalla. Sai che poi la farfalla a sua volta, certo, battendo le ali, fa dei casini, scatenare un uragano. Sì, no, sì, ma no, Manhattan, da San Francisco. Ah, San Francisco, capito. Vabbè, tipo Berlusconi comunque adesso, giusto per tornare sempre alle nostre cosucce. Come Berlusconi? No, perché la bambina Finocchiaro ha appena detto in televisione che Berlusconi è come un calabrona che si agita in un vasetto di vetro. Ah. Perché adesso si usano tante immagini per descrivere Berlusconi. Un deputato dell'UDC ha detto: Berlusconi e i bossi sono come Totò e Peppino a Milano, che non so se è quello del Nouveau Le Bon Savoir, sì, quella roba quello, lì, quello, sì. Un altro dell'Italia dei Valori dice: Berlusconi tiene in vita il governo con i riti voodoo. Quindi tu i capelli di Scilipoti che cerca di farlo, non lo so, come delle bamboline di Scilipoti. No, esatto. Scilipoti è già una bambolina voodoo. Ma come? Ma come Scilipoti? L'agopuntura piena di spilli. Questo è molto divertente. Poi c'è Bersani, che è maestro di metafore, che si limita a un più la barca affonda più stanno attaccati, che detta in un momento di disastri nautici nelle nostre acque territoriali forse non è l'immagine migliore. Fa casino Bersani, Bersani sì, non è che è bravo a inventare le metafore, però è anche oggetto di metafore. Guardi, Bersani è entusiasmante come un capo filiale della COP alle 19:55 che aspetta che si facciano le 20, si spegne il supermercato, spegne il tornello e va a casa. Ascoltate con attenzione e scrivete a chiedoasilo@radio24.it il nome di questo strumento.